Io che giro il mondo, oggi mi son fermato in un paese splendido che mi va. Ogni giorno in siesta, ogni notte in festa, mi sdraio e non mi muovo più. Non c'è nessuno triste, l'allegria non costa, qui le ragazze vivono per amare. Quando ti innamori, per amore muori, per questo non mi muovo più. Una chitarra, una luna piena, una ragazza meravigliosa, un'atmosfera così serena, e nulla più, nulla più, nulla io chiedo per me. Son di tutti amico, canto se mi piace, o come i giorni passano non si sa. Non esiste il tempo, non esiste il pianto, ragazzi non mi muovo più. Las noches cantan sus melodías, que son alegres y tan felices. Todos serán, somos duros y eras, y nada de nada te jura yo quiero por mí. Son de tutti amico, canto se mi piace, e come giorni passano non si sa. Non esiste il tempo, non esiste il pianto, ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più. Ragazzi non mi muovo più.